Ciao a tutto, tutte e tutti, e bentornato al secondo podcast verso il 25 novembre, podcast dalla zona fucsia di Autoru e Pillole. Il podcast di oggi avrà come tema il reddito di autodeterminazione. Sentiremo cinque letture accompagnate da altrettante canzoni. Le letture che sentiremo sono: uno stralcio del piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e di genere di Non Una Di Meno, il cui titolo è Libere dalla violenza economica, seguita poi dalla canzone di Erykah Badu di Didn't You Know. Seconda lettura sarà uno stralcio dal testo Genere Capitale di Silvia Federici, accompagnata da Tomboy di Princess Nokia. Terza lettura sarà un estratto di Femo Nazionalismo di Sarah Ferris, seguita dalla canzone di Kite, Natural Woman. Abbiamo poi come quarto testo un estratto da A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, scusate, di Precarias a la deriva, in spagnolo il cui titolo specifico è Como se hace una deriva, seguita dalla canzone You Don't Got to Call Me di Estef. Quinta e ultima lettura è tratta dal testo Invisibili di Caroline Criado Perez e concluderemo con il pezzo Borders di MIA. Buona puntata. La cosiddetta femminilizzazione del lavoro richiama oggi non solo all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma a un processo più articolato e complesso. Da un lato, l'estensione a tutta la forza lavoro dei tratti che hanno storicamente caratterizzato il lavoro femminile, quindi l'obbligo a una piena disponibilità del tempo, l'intermittenza e la gratuità lavorativa. Dall'altro, una modalità specifica di sfruttamento che mette al lavoro le soggettività stesse, gli stili e le forme di vita, le capacità relazionali e di cura. È il femminismo, del resto, ad aver mostrato come nel capitalismo la sfera della riproduzione sociale e della cura sia divenuta immediatamente produttiva. Ma se il lavoro produttivo viene quantificato e scambiato con un salario, seppur oggi sempre più basso, quello riproduttivo che da tempo ormai eccede le sole attività domestiche, qualificando la produzione stessa, ancora non viene conteggiato economicamente né socialmente riconosciuto. Quando è conteggiato o formalmente riconosciuto, è sottopagato e sfruttato oltre misura. In altri termini, la ricchezza che quotidianamente in molte forme e su più livelli produciamo ci viene sottratta e non è in alcun modo ridistribuita. Didn't you know? Didn't you know? Tratto da Genere e Capitale per una lettura femminista di Marx di Silvia Federici. Tra le principali preoccupazioni dei riformatori c'era anche la crescente disaffezione delle donne della classe operaia rispetto alla famiglia e alla riproduzione. Occupate in fabbrica tutto il giorno con uno stipendio proprio, abituate alla propria indipendenza e a vivere in uno spazio pubblico con altre donne e uomini per la maggior parte della loro giornata, le donne della classe operaia inglese e soprattutto le ragazze non avevano alcun interesse a impegnarsi nella produzione di una nuova generazione di lavoratori. Rifiutavano il lavoro domestico e minacciavano la morale borghese con comportamenti spavaldi e abitudini maschili come fumare e bere. Dalla metà del XIX secolo all'inizio del XX, i rapporti dei riformatori lamentavano insistentemente l'ignoranza delle operaie riguardo alle faccende domestiche e i loro sprechi. Compravano tutto ciò di cui avevano bisogno, non sapevano cucinare, cucire e tenere la casa pulita, cose che, si notava, costringevano i mariti a cercare rifugio in osteria. A tal riguardo, nel 1867 la Children Employment Commission, una commissione d'inchiesta sul lavoro dei bambini, lamentava che, essendo occupate dalle 8 del mattino alle 5 di sera, esse, cioè le donne sposate, tornavano a casa stanche ed esauste e non sono disposte a fare ulteriori sforzi per rendere confortevole la casa, così quando il marito ritorna trova tutto sgradevole, la casa sporca, il pasto non preparato, i figli noiosi e litigiosi, la moglie sciatta e arrabbiata e la sua casa gli appare così poco accogliente che non di rado si precipita all'osteria e si ubriaca. Anche Karl Marx ha notato che le ragazze che lavoravano in fabbrica non avevano conoscenze domestiche e destinavano i loro guadagni all'acquisto di provviste che una volta venivano prodotte in casa, e concludeva dicendo che la chiusura dei cotonifici causata dalla guerra civile americana aveva avuto almeno un effetto benefico, perché le donne finalmente trovavano il tempo necessario per allattare i propri bambini invece di avvelenarli con il Godfrey Cordial. Alla preoccupazione per la crisi della vita familiare provocata dall'occupazione femminile si aggiungeva la paura che le donne potessero usurpare le prerogative maschili, così da minare la stabilità della famiglia e fomentare disordini sociali. Le operaie, avvertiva una promotrice della riduzione dell'orario di lavoro per le donne durante uno dei dibattiti parlamentari che nel 1847 hanno portato al Ten Hours Act, non solo sconvolgono il lavoro degli uomini, stanno anche occupando i loro posti. Formano club e associazioni e acquistano gradualmente tutti quei privilegi che ritengono propri del sesso maschile. Si temeva che una famiglia disgregata avrebbe prodotto instabilità sociale. Trascurati in casa i mariti avrebbero passato il tempo libero nei pub, facendo incontri pericolosi e adottando un atteggiamento turbolento. So damn pretty, staircase in a crack Philly, little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes, bop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties. Tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy.

You're pretty much my controller. Let me see you, robot. Haven't seen you in a minute. And I don't like your stuff. Didn't know that I was keen on jazz. Rappity rap, a street tappity tap. Quit when I was 11 to work on my tennis. Now all I do is run from love. And I'm guessing Galileo, cause all I do is reach for the stars and Mars and Venus. Cerebellina. We'll be watching movies all night. You know how to grind a shit by the boat. That shit tight in. They not no makeup on, still scuff on my head. You look into my eyes. Do I prefer to see you instead? You make me feel like a natural woman, but money. You make me feel like I have some emotion, but money. Like I have enough love to share with someone, but money. You make me feel like a natural. Driving on a 480 reaction, slow but crazy. Smoking on that purple hazy. Pick me up at a friend's house, 40 minute drive. Stopped at McDonald's, got a happy meal. Extra pickle, despicable me, torn inside. Yeah. It's my first time, I never kissed a guy like I've held his hand and maybe kissed the cheek a couple times. But none of that lip lip tongue shit. Never done none of that lip lip tongue shit. You reach into my mind, talk about the universe and how it ain't fair. Now that I want some new hair, your mom and daddy don't care. You get all the girls' attention, and you blush when I say, yeah, I know. And the white girls want your baby, and the white girls want your baby. Not to be a slave, then when's the last time you hooked your boy with a fresh face? Ever seen his face lately? You told me how his woman took your place, but you forgot all about that and asked me how was my day. Yeah, I like that. And this is exactly how you make me feel. You make me feel like a natural woman for money. You make me feel like I have some emotion for money. Like I have enough love to share with someone for money. You make me feel like a natural woman. ¿Cómo se hace una deriva? Partimos de sectores precarios feminizados. Para empezar, elegimos 5. Doméstico, telemarketing, traducción y enseñanza de idiomas, hostelería y enfermería social. Dejando para una fase ulterior otros igualmente importantes, prostitución, becarías, publicistas, comunicadoras, mediadoras, educadoras. Las mujeres que nos guiaron en ocasiones, algunas de nosotras, en otras, compañeras, amigas, conocidas, eligieron una serie de localizaciones relevantes: la casa, el lugar de trabajo, el súper, el parque, el cibercafé, que fuimos uniendo a modo de puntos de un itinerario, cargando de significación como el mapa de redes de azar y simultaneidad que compone nuestro cotidiano. Así, de mano de una profesora de inglés, pudimos conectar, en parte de forma fortuita y gracias a la espontánea visita guiada de uno de sus alumnos y jefe de NSR, Multinacional de Instalación y Mantenimiento de Cajeros Automáticos, la realidad del trabajo flexible de nuestra compañera en la nueva fábrica recompuesta según la exigencia del mercado globalizado. La deriva posibilita contemplar la cotidianidad como dimensión de lo político y fuente de resistencias, primando la experiencia como categoría epistemológica. La experiencia, en este sentido, no constituye una categoría preanalítica, sino una noción central para comprender la imbricación de las actuaciones diarias y, lo que es más importante, los modos en los que damos sentido a la cotidianidad localizada y corporizada. No se trata exactamente de una técnica de observación. No pretende, por lo tanto, reproducir o acercarse a la experiencia tal y como sucede habitualmente, un ideal de la antropología clásica difícilmente realizable, sino producir un movimiento simultáneo de acercamiento y distanciamiento, visualización y extrañamiento, tránsito y narración. Así pues, nos interesa el punto de vista de quien de quienes nos guían, cómo definen y experimentan la precariedad, cómo se organizan diariamente y cuáles son sus estrategias vitales a corto y largo plazo, cuáles sus expectativas, sin obviar en este proceso el diálogo y la complicidad que se produce durante nuestro encuentro. Ya no hay vuelta atrás. Una vez en casa, la cabeza sigue bullendo hasta la próxima cita. Tratto da Invisibili di Caroline Criado Perez. La mancata misurazione dei servizi domestici non retribuiti è forse la madre di tutti i gender data gap. Il lavoro di cura non pagato corrisponde, secondo alcune stime, al 50% del PIL dei paesi ricchi. Nei paesi a basso reddito la quota sale fino all'80%. Se volessimo includerlo nel calcolo complessivo della ricchezza nazionale, il PIL del Regno Unito balzerebbe a 3.900 miliardi di dollari, contro i 2.600 del dato ufficiale fornito dalla Banca Mondiale, e quello dell'India salirebbe a 3.700 miliardi di dollari, contro i 2.300 della Banca Mondiale. Le Nazioni Unite calcolano a 3.200 miliardi di dollari il valore complessivo dei servizi gratuiti di assistenza all'infanzia svolti negli Stati Uniti nel 2012, all'incirca il 20% del PIL di quell'anno, pari a 16.200 miliardi di dollari. Nel 2014 le ore di assistenza non retribuita prestate ai familiari malati di Alzheimer erano stimate a quasi 18 miliardi. Negli Stati Uniti poco meno di una persona su nove nella fascia di età da 65 anni in su è affetta dalla malattia. Il corrispettivo in denaro di quel lavoro era calcolato a circa 218 miliardi di dollari, ovvero, come sosteneva l'autrice di un articolo pubblicato da The Atlantic, quasi metà del valore netto delle vendite realizzate dalla catena Walmart nel 2013. Nel 2015 il lavoro domestico e di cura non retribuito era valutato al 21% del PIL, cioè più del settore manifatturiero, del commercio, dei servizi immobiliari, delle miniere, dell'edilizia, dei trasporti e dei servizi di magazzinaggio messi assieme. La filiale australiana di una grande multinazionale del settore contabile e finanziario sosteneva che i servizi non retribuiti di accudimento dei minori dovrebbero essere considerati il principale settore produttivo del paese, giacché producono, secondo dati del 2011, ben 345 miliardi di dollari, ovvero quasi il triplo del settore finanziario e assicurativo, che raggiunge solo il terzo posto di una classifica che vede in seconda posizione gli altri servizi domestici non retribuiti. Si tratta, come avrete notato, di stime. Non può che essere così, poiché oggi nessun paese raccoglie dati sistematici sul lavoro di cura gratuito. Questo non vuol dire che sia impossibile, al contrario, c'è un metodo molto semplice che consiste nel chiedere alle donne come impiegano il loro tempo. Si sceglie un campione di soggetti e lo si invita a registrare tutti gli spostamenti giornalieri specificando che cosa fa ognuno, dove e con chi. Questi semplici metodi di raccolta dei dati, sostiene l'autorevole economista Nancy Faulbr, ci hanno permesso di scoprire che in ogni nazione del mondo le donne svolgono una quantità enorme di lavoro informale e hanno complessivamente un orario di lavoro più lungo di quello degli uomini. Nella versione più classica, i sondaggi sull'impiego del tempo servono a misurare attività ben definite, come la preparazione dei pasti, la pulizia della casa e l'allattamento, il che significa che spesso non tengono conto dei servizi a richiesta, quando per esempio si sta facendo qualcosa ma nel contempo si tiene d'occhio un bambino che dorme o si resta a disposizione di un familiare infermo. Anche qui c'è un vuoto di dati. Alcuni sondaggi che si ponevano l'obiettivo esplicito di misurare i servizi a richiesta, ci hanno comunque dimostrato che il valore di mercato di quel tipo di assistenza, anche a un salario di sostituzione molto basso, è significativo. Ma come già abbiamo visto, per i dati sugli spostamenti, quel lavoro finisce spesso per perdersi, confondendosi con il tempo libero. La conseguenza della mancata raccolta di tutti questi dati è che il lavoro gratuito delle donne è visto per lo più come una risorsa sfruttabile a costo zero. Freedom, I don't meet 'em. Where you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? System, yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck.